Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, c'è qualche titolo per commentare anche qui il terremoto politico che ha avuto luogo domenica e lunedì scorso con le elezioni politiche nel nostro paese. Tra i risultati più clamorosi certamente c'è stato l'insuccesso della lista di Mario Monti, e allora vi segnalo un libro di un intellettuale, manager ed ex parlamentare del centro-sinistra, cioè Franco De Benedetti, che ha scritto Il peccato del professor Monti, l'Europa, i tecnici e le identità politiche degli italiani, pubblicato da Marsilio, 110 pagine, 10 euro. Il libro era uscito in piena campagna elettorale, allora per ragioni di par condicio non ne ho voluto parlare, ma adesso sentiamo l'autore. Quale sarebbe il peccato del professor Monti? Quello appunto di aver instillato la convinzione, secondo Franco De Benedetti, che nella politica il tradizionale discrimine tra destra e sinistra non esista più, non funzioni più e debba essere superato tra la divisione tra chi voglia fare le riforme e chi invece si opponga a queste riforme, in base a una visione tecnocratica che certamente non riesce a scaldare i cuori della gente, come purtroppo per il professor Monti hanno dimostrato i risultati elettorali. Ma su questo sentiamo l'autore. Buongiorno a Franco De Benedetti. Buongiorno. Allora, Franco De Benedetti, mi pare che le elezioni abbiano confermato la diagnosi contenuta in questo libro. Il professor Monti ha pagato caro il suo peccato. Ha pagato caro il suo peccato. Ricordiamolo solo qual è il peccato. Secondo me è quello di considerare che la lotta politica debba essere non tra destra e sinistra, che le preferenze degli elettori non si devono allineare sull'asse destra-sinistra, che è quello tradizionale, quello su cui si è fatta l'identità politica degli elettori, ma su un asse chi è a favore e o contro le riforme. Cioè, a parte il fatto che poi bisogna decidere quale riforma scegliere, perché se prendiamo per esempio per la riforma del mercato del lavoro, c'è la posizione, non so, di un Luciano Gallino, per il quale il problema dei disoccupati si risolve dicendo allo Stato di assumere dei disoccupati, e i Pietrichino che invece ritiene di risolverlo aumentando la flessibilità in entrata e in uscita. Quindi credo che questo sia uno degli effetti, direi, tutto sommato positivi dello shock di queste elezioni. Cioè, si è fatto piazza pulita di tante politically correct, tante idee che si ritengono politically correct. Ecco, secondo lei questa forza dell'asse destra-sinistra è quello che poi caratterizza e fa la democrazia? Non ci può essere democrazia senza quest'asse, senza questa divisione? Assolutamente sì. Cioè, guardiamo cosa è capitato nelle elezioni. Le elezioni sono stato un momento, comunque si voglia giudicare il suo esito, è il momento nel quale si tocca con mano la democrazia, se vogliamo. La democrazia è con noi tutti i giorni, in quei giorni lì è proprio, c'è solo quello. Ma vediamo la partecipazione che c'è stata. Ma lei pensa, per esempio, che ci sarebbe una partecipazione di questo genere, una partecipazione identitaria di questo genere, se, come dice Monti nel libro scritto con la Sylvie Goulard, che spettacolo meraviglioso di democrazia se 500 milioni di europei votassero per il Presidente dell'Europa. Io non credo che ci sarebbe questa partecipazione. E ricordiamo che se vogliamo uscire dalla crisi, noi dobbiamo fare appello alle risorse personali e patrimoniali degli italiani, alle loro identità. Se noi prescindiamo dalla loro identità, ma che voglia pensa che ci sia? E infatti nel suo libro viene messo sotto accusa anche un certo europeismo, quantomeno l'ottimismo degli euroentusiasti, nel quale evidentemente l'opinione pubblica, secondo me non solo italiana, non si riconosce più. Non c'è dubbio. Questo è, d'altra parte, la posizione che qualifica qualunque governo che verrà, è la sua posizione riguardo all'Europa. Io contesto il fatto che vengano chiamati euroscettici o addirittura contrari all'Europa quelli che indicano le scelte impossibili di fronte a cui viene messo un paese come l'Italia. Scusi, non lo dico solo io, non credo che, c'è un articolo sul Corriere della Sera della Lucrezia Reichlin che ne parlava appunto del fatto che noi sia la strada del rigore assoluto contenuto dal six pack e dall'impegno a abbattere il nostro debito entro un certo numero di anni, sia questo, sia l'impensabile uscita dall'euro, sono due alternative che entrambe sono impraticabili. Ma lo diceva anche Martin Wolf sul Financial Times alcuni giorni fa, cioè nomino persone che certamente sono tutti, non diciamo euroentusiasti, ma sicuramente a favore dell'Europa. Cosa diceva Martin Wolf? Se noi, se l'Italia, un paese come l'Italia, che ha perso competitività nei riguardi dei suoi, della Germania diciamo, ma dell'ordine del 20%, come fa a recuperare? Recupera mantenendo dei programmi di austerità di questo genere, oppure dal momento che non può svalutare la sua moneta, deve svalutare all'interno? È possibile svalutare salari e stipendi in questo modo? Ecco, uno degli aspetti che assume l'Europa per molti italiani, non soltanto di nuovo, è l'aspetto fiscale. Lei a un certo punto scrive: con le tasse si toccano le tasche, per fare le riforme bisogna cambiare le teste. Quanto ha pesato questa rivolta fiscale, in qualche modo, che serpeggia nell'opinione pubblica europea? Nel mio libro io penso che il peccato di Monti sia appunto un peccato, diciamo, ideologico, come quello che dicevo prima, però è indubbio che anche il modo con il quale sono stati messi in sicurezza i conti pubblici dell'Italia, beh, insomma, è stato fatto tutto praticamente tutto sul lato delle imposte, pochissimo sul lato dei tagli. Ora, io non discuto, quando lui è stato chiamato al governo c'era una situazione che probabilmente non ammetteva altre soluzioni, che probabilmente era veramente di alto rischio per il paese, che noi andando a piazzare un giorno che veniva un'asta dei bot, non si fosse presentato nessuno a comprarlo, certamente sarebbe stato un disastro molto grave per il paese. Però ecco, questo è durato qualche settimana, un mese o due, invece diciamo, l'orientamento fiscale del governo è durato fino alla fine. Poi c'è un altro fatto, la Tobin Tax. La Tobin Tax, questo qui è il politically correct europeo, al galoppo. La Tobin Tax, c'era un articolo giorni fa sulla Frankfurter Allgemeine, in cui dimostrava quanto perde un risparmiatore normale, non uno speculatore, un risparmiatore, uno che tutti i mesi prende 100 euro e lo mette in un fondo pensione, come ce ne tanti. In 10 anni perde se ben ricordo, il 5%, in 40 anni perde il 9,5%. Ecco, per tornare all'asse destra-sinistra, molte delle politiche, però, ne ha fatto un cenno per esempio sulle politiche del lavoro che lei auspica, sono politiche che altrove sono considerate di destra. Allora, come si vince questo paradosso italiano per cui lei, uomo di centro-sinistra, auspica delle riforme che appunto altrove sono considerate di destra? Secondo me fa parte della battaglia politica, è una battaglia di idee e deve portare a considerare non le conseguenze immediate, ma anche le conseguenze non intenzionali dei propri atti. D'altra parte, scusi, di destra o di sinistra sarà, però sta di fatto che queste cose sono state fatte da un governo socialdemocratico in Germania, da Schröder, le cose non andavano bene. A un certo punto, vi ricordiamo che la Germania in quegli anni, negli anni immediatamente precedenti, era considerato il malato d'Europa, e a un certo punto Schröder si è reso conto, ha avuto il coraggio di fare le riforme, la famosa Hartz IV, che ha liberalizzato il mercato del lavoro, e le performance della Germania nel campo nelle esportazioni sono dovute a tanti fattori, ma in modo determinante alle riforme che ha introdotto Schröder. Perché poi Schröder ha pagato, nel senso che alle successive elezioni è stato costretto alla coabitazione con la Merkel, e poi sono successe altre cose. Però sa di fatto che si dimostra che un governo socialdemocratico può fare queste cose. Da noi c'è la storia che conta, c'è la storia politica che conta, conta nel bene e conta nel male. Io credo che anche in quello che prima richiamava l'esito delle elezioni, se andava a vedere che cosa è successo, le ragioni per le quali il PD, che sembrava incamminato verso la vittoria, è andato a un pelo dal perdere e al Senato non riesce a fare maggioranza, io credo che, se andiamo a vedere bene, ci sono anche quelle le ragioni. Cioè, la storia non si fa con i sé, però è immaginabile che se ci fosse stato un altro al posto di Bersani, probabilmente sarebbe stata un'altra storia. Grazie a Franco De Benedetti, autore di Il peccato del professor Monti. Buona domenica. Ti ringrazio molto. Un libro premonitore sul successo del Movimento 5 Stelle è quello pubblicato dal Mulino, che si intitola Il partito di Grillo. Gli autori sono Pier Giorgio Corbetta ed Elisabetta Gualmini, 242 pagine, 16 euro. È un libro che è stato scritto con l'aiuto dell'Istituto Cattaneo, nel quale appunto si esaminano le origini e i possibili sviluppi di questo partito, indicando quei caratteri che sono esplosi appunto con il voto di domenica e lunedì scorsi. Ma adesso la domanda è se il successo di Grillo sarà un fuoco di paglia. È interessante anche ripercorrere l'esperienza di alcuni movimenti che nel passato ebbero un grande successo, salvo poi concludersi rapidamente. Per esempio il movimento dell'uomo qualunque, che è ricostruito nel libro di Paolo De Otto e Luciano Garibaldi, storico il primo, giornalista con interessi storici il secondo, La vera storia dell'uomo qualunque, 114 pagine, 10 euro, pubblicato da Solfanelli. L'Uomo Qualunque era una rivista fondata il 27 dicembre 1944 che riecheggiava certi toni che oggi sono sicuramente ancora di moda. Il giornale dell'uomo qualunque, stufo di tutti, il cui solo ardente desiderio è che nessuno gli rompa le scatole, così gli diceva il suo fondatore Guglielmo Giannini. Lui, Giannini, di inclinazione era un liberale, decisamente, scrivono gli autori, un liberale, un liberista e un libertario, semmai di matrice anarchica. Anche se riuscì ad attrarre soprattutto elettori di estrema destra, in particolare fascisti rimasti senza punti d'appiglio, senza protezioni, esposti alla persecuzione, alla galera, alla perdita del posto di lavoro, alla confisca dei loro beni e in Emilia al Nord, concludono gli autori, al colpo di pistola alla nuca. Giannini cercherà di infilarsi nel Partito Liberale ma sarà respinto e allora fonda il suo partito che alle votazioni per la Costituente ha appunto un grande successo, un enorme successo, prende il 5,3% dei voti, comunque meno di Grillo, e diventa il quinto partito in Italia e ancora più voti raccoglierà nelle successive elezioni amministrative. Ma la sua fortuna elettorale non sarà baciata dal successo politico che non esplode, non si manifesta. Tutti praticamente gli fanno terra bruciata intorno. A un certo punto Giannini si rivolgerà addirittura al Partito Comunista, ma Togliatti non gli darà naturalmente spazio e tantomeno gli dà spazio il Partito della Democrazia Cristiana e quindi all'elezione del 48 saranno soltanto 9 i deputati che potranno entrare in Parlamento e lui, il fondatore Guglielmo Giannini, morirà abbastanza dimenticato nel 1960. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, consoliamoci dai travagli della politica parlando di pittura, di grande pittura classica. Parliamo di due grandi maestri dell'inizio e della fine del Rinascimento. Il primo è Piero della Francesca, che ritroviamo in un libretto di Carlo Bertelli, Piero, un pittore per due nemici, pubblicato da Schirà, 52 pagine, 9 euro. L'autore è un grande studioso del Rinascimento, uno tra i maggiori storici dell'arte italiana, e scrive qui un saggio che ha una genesi curiosa, perché Bertelli avrebbe scritto qui un saggio per il catalogo di una mostra che non si è poi potuta realizzare, quella che avrebbe dovuto portare a Milano, a Brera, dal Louvre e dagli Uffizi, due ritratti di Piero della Francesca da affiancare al capolavoro che è custodito già a Milano, e cioè la Pala di Brera. I due ritratti sono quelli di Sigismondo Malatesta e di Federico da Montefeltro. Quest'ultimo lo ritroviamo anche inginocchiato nella Pala di Brera. I due furono appunto due acerrimi nemici, ma ebbero l'onore di essere serviti entrambi da Piero, che ne lasciò varie testimonianze. Del primo esiste anche un famoso affresco a Rimini. La mostra non si è fatta, ma il tema ha stuzzicato l'interesse dello studioso, che attraverso le vicende delle opere considerate ci ricorda in poche ma succose pagine la vita, l'opera e il ruolo svolto da Piero della Francesca, sul quale ricordo che è in corso a New York alla Frick Collection fino al 19 maggio una mostra con 7 opere di Piero della Francesca, cioè tutte le opere del grande pittore custodite negli Stati Uniti. L'altro grande artista è Pontormo, che è uno dei maestri del manierismo, morto nel 1556, celebre per molte sue opere, ma anche per un curioso quadernetto intitolato Il libro mio, che tenne negli ultimi mesi della sua vita, con annotazioni molto curiose, molte di queste erano di economia domestica, e proprio questo libretto è al centro del libro che adesso vi presento di Salvatore Silvano Nigro, L'orologio di Pontormo, invenzione di un pittore manierista, pubblicato da Bompiani, 216 pagine, 12,50 euro. Qui troviamo il testo del libretto con la riproduzione dell'originale e un saggio di Nigro che ci apre squarci insoliti sulla vita e l'opera di Pontormo, punteggiata da episodi strani, da scherzi, da momenti anche di grande solitudine. Ne esce il ritratto di un artista probabilmente ipocondriaco, fissato anche con prescrizioni igieniche, quello che all'epoca venivano rese possibili, come spiega per esempio questo brano che vi propongo. Il sessantenne Pontormo si confezionò un manualetto di prescrizioni sanitarie, nella forma concisa di verità indiscutibili, per meglio potervi credere e confortarsene. Si appellò alla letteratura sul temperamento dei cibi e delle loro qualità, sulle loro caratteristiche e sulle loro controindicazioni, oltre che sulla solidarietà o sul dissidio, con lo stato del corpo, il corso del cielo, le lune corrotte e le costellazioni maligne. A questa letteratura de preservazione Pontormo si era forse accostato già nel 1522, durante la peste esplosa a Firenze. Sta di fatto che con il quattrocentesco Consiglio contro la pestilenza di Marsilio Ficino, con i suoi rimedi confortativi a proposito di cibi e umori superflui, e con il modo di procedere tra un però bisogna e un maxim, concordano le regole del giornale di Pontormo sulla preservazione della salute. La cura del corpo suscitò il calcolo giornaliero. La trascrizione scrupolosa e maniacale della quantità e della qualità del cibo, la registrazione delle risposte disordinate e irose degli umori e, inframmezzate, le annotazioni sugli avanzamenti dell'affresco al quale tendeva lo sforzo di salute. Al compendioso regime, Pontormo fece seguire coerentemente un calendarietto. Fino all'ottobre del 1556, morì il 1 gennaio del 1557. E proprio per questa ragione Manganelli, in uno scritto del 1985 che recensiva questo libro di Pontormo e che fa da prefazione a quest'opera, descrive il Pontormo in questo modo: forse è pazzo, forse è un borderline, un fluttuante psicotico, non ama frequentazioni mondane, socievoli di colleghi, è solitario e in guise certamente maniacali. Si fa costruire una casa e dentro questa casa una stanza isolata e con cui si può comunicare solo manovrando una scala che gli ritira o allunga secondo l'umore. E su Manganelli ricordo il volume di Viola Papetti, Gli straccali di Manganelli. E gli straccali sono le bretelle che vediamo inforcare a Manganelli nella foto che domina la copertina di questo libro, pubblicato da Sedizioni, 124 pagine, 18 euro, un libro che racchiude una serie di ricordi e di considerazioni sul personaggio e sull'attività del grande scrittore. Torniamo all'arte con un libro di Metin Arditi, che è uno scrittore turco-svizzero, capo dell'orchestra della Svizzera Romanda, che ha pubblicato Il Turchetto. È pubblicato da Neri Pozza, 256 pagine, 16,50 euro, tradotto da Roberto Boi. Siamo nella Venezia del Cinquecento, dove opera un grande pittore, appunto il Turchetto, di origini ebree. Nato a Costantinopoli, cominciò a manifestare subito la passione per il disegno, che lo mette anche in rotta di collisione con la propria religione, che, come l'islamismo, vieta le immagini. Al prezzo di un ritratto fatto al capitano, il ragazzo riuscirà a imbarcarsi su una nave che lo porta a Venezia, dove diventerà nel romanzo uno dei più grandi artisti dell'epoca. Ma il successo non gli darà la tranquillità, perché oscure vicende lo riporteranno a Costantinopoli per salvarsi dall'Inquisizione e poi lo vedranno entrare in rotta di collisione con la Repubblica di Venezia. E quindi questo libro assume anche il carattere di una considerazione sulle condizioni di una minoranza, quella ebraica, fatto oggetto di persecuzione e intolleranza anche in quella che si considerava la tollerante Venezia. Al centro del libro un quadro che troviamo in copertina, un quadro meraviglioso di Tiziano, custodito al Louvre, l'uomo col guanto, che in realtà non sarebbe di Tiziano, ma sarebbe proprio di questo misterioso pittore che viene così descritto. In piedi, la mano destra stretta attorno al bastone, il maestro non riusciva a staccare gli occhi dal quadro. Aveva davanti il più bel ritratto che fosse mai stato realizzato, il tratto di una precisione assoluta, e i colori, come aveva fatto a ottenere tutte quelle sfumature di scuro. E nello sguardo del giovane c'era tutta la bellezza della sua età e fascino, ma anche forza e bontà d'animo. Si avvicinò al quadro per cercarne la firma. Non la trovò. I suoi occhi non erano più quelli di un tempo. Fece tre volte il giro del quadro con lo sguardo e finì per trovarla, nell'angolo inferiore destro, una T maiuscola, dipinta con un grigio scuro. Per concludere, veniamo alla cronaca. Avrete letto negli scorsi giorni della vicenda un po' pruriginosa di quella scrittrice parigina che è entrata in rotta di collisione con un uomo potentissimo, una volta potentissimo, Dominique Strauss-Kahn, che oggi avrebbe potuto essere presidente della Repubblica Francese, la cui carriera fu stroncata dal famoso scandalo all'albergo Sofitel. La donna ha scritto un libro, Belle et Bête, e questo libro proprio nei giorni scorsi è stato bloccato dalla magistratura parigina, la quale chiede che venga inserita un'avvertenza secondo la quale il libro viola la riservatezza e la privacy di Strauss-Kahn. In effetti, in questo libro l'autrice Marcela Jacob illustra il rapporto durato pochi mesi ma pare molto intenso con Strauss-Kahn, e il libro avrebbe dovuto essere pubblicato proprio in questi giorni da Stock, 128 pagine, 13,50 euro. È un libro ricco di riferimenti al personaggio, che viene definito senza tanti complimenti mezzo uomo mezzo maiale. È curiosa la genesi del libro, perché questo libro giunge appunto al termine di una relazione che secondo Strauss-Kahn è stata organizzata proprio per scrivere il libro, relazione nata dopo la pubblicazione di un altro libro di questa autrice, che è una famosa femminista francese che è stato tradotto anche in Italia. Da noi si intitola Una società di stupratori, è pubblicato da Medusa Edizioni, 11 euro, 102 pagine. Ed è un libro nel quale la studiosa, che alcuni considerano una sorta di papessa del femminismo francese, mette in discussione, proprio partendo dalla vicenda di Strauss-Kahn a New York, molte posizioni dello stesso femminismo, sempre pronte a accendersi contro tentativi magari ipotetici di stupro che i maschi penserebbero sempre e soltanto di organizzare. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato di arte, quindi vi presento un libro illustrato da una grande, grandissima artista contemporanea, la giapponese Yasui Kusama, che illustra un grande classico, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, nell'edizione per Orecchio e Cerbo, 182 pagine, 30 euro, la traduzione di Milli Graffi. Questo è un bellissimo libro illustrato con le immagini oniriche e visionarie di un artista che si definisce la moderna Alice nel Paese delle Meraviglie. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, nel quale potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.